Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Oggi è il 4 maggio e va in onda la seconda edizione di Italia in controluce, l'informazione su Radio 24, l'approfondimento, l'inchiesta sulla cronaca italiana. Tra blocchi alle frontiere e rimpatri forzati, l'emergenza immigrazione di queste settimane riaccende decisamente i riflettori su uno strumento poco conosciuto e poco utilizzato, cioè il rimpatrio volontario assistito. Maria Luisa Pezzali. Partire in cerca di una vita migliore per sé e per la propria famiglia. È la storia dei migranti, da sempre, raccontata da tutte le Lampedusa del mondo. Non sempre, però, la vita che si trova è migliore di quella che si è lasciata, oppure lo è per un po'. Poi, il pensiero di casa diventa un richiamo difficile da non ascoltare. Per chi non può o non vuole più restare nel paese ospitante, esiste il rimpatrio volontario assistito. La possibilità di ritornare nel proprio paese in modo volontario e consapevole. Una possibilità offerta attraverso l'utilizzo di fondi europei che coprono le spese di viaggio e i progetti di reintegrazione in patria, per far sì che il ritorno non sia una sconfitta. Per far conoscere agli immigrati questo strumento poco utilizzato è nata la campagna Ritornare per ricominciare. Ero un migrante e volevo tornare a vivere nel mio paese. Non sapevo come fare. Con il ritorno volontario assistito ho avuto un aiuto concreto. Sono molti i pregiudizi da sfatare sul rimpatrio volontario assistito, sia negli immigrati che nell'opinione pubblica, ci dice Carla Olivieri, responsabile della campagna per AICRE, Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che lavora insieme al Consiglio Italiano per i Rifugiati e all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Viene percepita come un fallimento del progetto migratorio e non un'opportunità, una fase per riprogettare, riprogrammare la propria vita, il proprio percorso e il proprio progetto migratorio. E poi questa misura è caricata anche dalla percezione di una misura che maschera un rimpatrio forzato o al contrario che da parte della popolazione talvolta è percepita come una misura premiante al migrante a cui gli viene concesso di ritornare con tutti questi supporti nel proprio paese e poi ritornare in Italia, senza considerare che alla partenza l'accesso alla misura del rimpatrio volontario assistito corrisponde a una scelta consapevole del migrante e al fatto che al momento della partenza deve consegnare il permesso di soggiorno e quindi è una scelta, non dico di non ritorno, assolutamente definitiva, ma una scelta che comporta un investimento nel proprio paese, se non altro per il fatto che si realizzerà un progetto di reintegrazione e anche per il fatto che per ritornare legalmente poi in Italia devono essere rispettate tutte le normative che regolano i flussi migratori. Che cosa fanno una volta rientrati? Gina Villone di OIM. Dipende dal tipo di migrante che si assiste. Se il migrante è riuscito durante gli anni passati in Italia a mandare a casa delle rimesse o comunque ad avere dei risparmi, queste persone diciamo vengono più facilitate nella reintegrazione perché magari hanno già con le rimesse mandate a casa, acquistato una casa, per cui non hanno necessità di utilizzare questo contributo per l'alloggio e preferiscono utilizzarlo per esempio per avviare un piccolo negozietto. Certamente sulla riuscita di un progetto di ritorno e quindi soprattutto della sostenibilità del ritorno nel paese di origine contribuiscono diversi fattori, non ultimo anche le competenze del migrante. L'anno scorso siamo andati a fare con la collega un monitoraggio in Marocco e abbiamo visto che un nostro beneficiario del programma aveva messo su tutto un sistema di irrigazione nei campi di sua proprietà, competenza che aveva appreso in Italia. Molti optano ad un certo punto per il ritorno perché sentono la nostalgia della famiglia oppure anche il senso di appartenenza alla loro comunità, al loro paese, la nostalgia del loro paese. Un'altra motivazione può essere l'età. Chiaramente arrivati ad una certa età tutti hanno in mente alla fine il ritorno. Il pensiero del ritorno a casa in un migrante è sempre presente, ci dice ancora Carla Olivieri, che individua la molla di una decisione così difficile nella voglia di ricominciare. Di ricominciare e di riprogettare la propria vita dopo o a conclusione di una lunga esperienza di migrazione in Italia che gli ha portato a realizzare alcune cose che magari non sono andate a buon fine, o comunque la voglia di portare le competenze acquisite nel paese di origine da un lato, oppure, perché le motivazioni sono anche in relazione alla categoria dei migranti che possono accedere a questa misura, che sono anche rifugiati e richiedenti asilo a cui è stato rinunciato lo status o che rinunciano allo status perché magari la situazione problematica del proprio paese che li ha spinti a fuggire si è risolta e hanno voglia di ritornare, oppure sono soggetti che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e che quindi magari hanno appunto queste motivazioni che hanno spinto a fuggire dal proprio paese si sono risolte, eppure sono soggetti che hanno un elevato grado di vulnerabilità, come i casi sanitari o donne sole con bambini o situazioni di persone con problemi che preferiscono appunto ritornare nel proprio paese con un'assistenza e con un accompagnamento e con la possibilità appunto una volta rientrati di essere accompagnati e di che qualcuno appunto prenda contatto con una rete di accoglienza nel proprio paese. C'è da dire che comunque non è mai una scelta molto semplice perché corrisponde insomma a una rideterminazione, ripeto, del proprio progetto di vita, anche se i colleghi dell'OIM che oggi dal 91 sono stati gli unici attuatori di questi percorsi di rimpatrio, ci dicono che comunque l'idea del ritorno in un migrante rimane sempre. L'Italia attua programmi di ritorno volontario assistito dal 1991, prima con fondi solo nazionali, ai quali dal 2009 si sono aggiunti quelli del Fondo Europeo per i Rimpatri. Gli stranieri che hanno beneficiato del programma sono circa 7.000. Il 70% di loro proveniva dalle emergenze umanitarie dei Balcani e del Kosovo, gli altri da Brasile, Argentina, Ecuador, Perù, Ghana, Nigeria, Marocco e India. Negli ultimi anni la media è stata di 100 partenze all'anno, un numero che ora si prevede di raddoppiare, perché con la crisi le possibilità di lavoro si sono ristrette anche per gli immigrati, ci dice Valeria Agliata della Fondazione ISMU, responsabile per la Lombardia dell'antenna NIRVA, la rete per il ritorno volontario assistito che raggruppa le associazioni a contatto diretto con gli immigrati. Fuori dall'Italia è rivolto anche a migranti che hanno uno status fra virgolette di irregolarità. In Italia, da quando è stato istituito il reato di cosiddetto di clandestinità, cioè che il soggiorno irregolare è un reato, chiaramente questa opzione è stata delimitata solo a una categoria cosiddetta vulnerabile che riguarda rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta oppure persone che si trovano in uno stato di estrema marginalità. Certo, in seguito alla crisi è probabile che essendo aumentata la disoccupazione anche nella popolazione di stranieri potrebbe esserci maggiore interesse da parte di questa fascia di popolazione straniera, ecco, quello sicuramente, perché la crisi ha preso un po' tutti, non solo gli italiani ma anche gli stranieri, anche se magari ancora soprattutto in Lombardia ha retto, diciamo, l'occupazione, però qualche punto l'ha persa. Reporter senza frontiere ha pubblicato il rapporto sui governi autoritari che minacciano i giornalisti in tutto il mondo. Jacopo Matano da Roma ha sentito il responsabile italiano dell'organizzazione, il giornalista Mimmo Candido. Il rapporto fissa la propria attenzione sui soggetti, i capi di Stato, i capi di governo, i dittatori, che sono considerati da noi autentici predatori della libertà. Libertà ovviamente di manifestazione del pensiero, quindi che si tratti di coloro che scrivono sui giornali, di coloro che raccontano la realtà in radio o televisione o coloro che utilizzano internet. Non solo giornalisti quindi, ma anche blogger e web reporters sempre più giovani, come ci insegnano le rivolte in Nord Africa. E su questo infatti noi portiamo l'attenzione, abbiamo, se posso dire così, riposizionato l'attenzione di Reporters Sans Frontières che in passato aveva proposto la propria attenzione soprattutto sui paesi a dittatura o sistemi autocratici. Abbiamo spostato la nostra attenzione verso i paesi dove invece i flussi informativi appaiono liberi. Ecco, su questo noi adesso poniamo una particolare attenzione perché sempre più, grazie alla libertà di manifestazione e alla capacità di sfuggire a un controllo molto rigido che la rete consente, che i governi democratici stanno avviando delle pratiche governative che sempre più tendono a governare in termini restrittivi, quando non repressivi, la libertà di manifestazione del pensiero, che sia a livello individuale, cioè dei bloggers, o che sia a livello più organizzato, cioè di coloro che operano all'interno della rete collegati con sistemi editoriali. E a proposito di paesi democratici, come giudicate la condizione della libertà di stampa in Italia? Nel nostro paese è drammatica, drammatica, assolutamente drammatica. D'altronde le manifestazioni che sono state compiute l'anno scorso e che, se si riproporrà il problema delle intercettazioni, saranno nuovamente riproposte, è assolutamente drammatica. Noi dedichiamo uno dei capitoli proprio all'Italia e al ruolo che le organizzazioni criminali, la mafia, l'ndrangheta, la camorra soprattutto, stanno praticando sulla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, denunciando come non sempre le forme di, posso dire, di intervento governativo a sostegno della libertà, beh, queste non sempre vengano praticate. Lei è stato anche inviato di guerra. Che cosa si rischia oggi a raccontare una guerra alle porte di casa? I giornalisti rischiano ovviamente la vita. Il povero mio amico Tim Harrington, che è morto a Misurata, è un esempio di ciò che significa. Io direi che il giornalismo, quando è giornalismo, è sicuramente fastidioso, perché è un intervento critico sulla lettura in qualche modo addomesticata della realtà. Italia in Controluce termina qui, seconda edizione. Cercateci ogni giorno su Facebook, Twitter, comunicate con noi via mail controluceradio24.it. domani torniamo alle 6:30 con nuove storie su Radio 24.